Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, noi chiudiamo questa settimana parlando di un organo che in primavera è particolarmente sensibile. Non che non gli piaccia, ma sembra che l'arrivo della bella stagione lo metta un po' in difficoltà. Fa fatica, si lamenta e non ce lo manda a dire, manda segnali di fuoco, va in fiamme, brucia. Allora, cari amici, che vogliamo fare? Come spegnere l'incendio e soprattutto come evitarlo? 800 24 00 24. Sai, ho un appuntamento con Polly. Evviva! Dove la porti? Non lo so, in un ristorante dell'East Village. Perché hai fatto scegliere a Polly il ristorante? Tu prega a Dio che non ami l'etnico. Il posto non suonava etnico. Come si chiama? Al Hafez. Ti senti bene? Perché sembri una fontana con gli zampilli. Sì, no, sto bene, reagisco sempre così al cibo piccante. Scusa. Bene, uno stomaco sensibilmente in difficoltà. Questo è un problema diffuso che sembra manifestarsi, come dicevamo, con più frequenza nel cambio di stagione. Adesso siamo in primavera. Se voi ne avete esperienza diretta, chiamateci, siamo ancora in tempo per far cambiare idea al nostro stomaco. Come? Direte voi, suggerisco io, mangiando un po' di meno, ad esempio, riducendo le porzioni. Questo forse è un piccolo cambiamento che metterebbe il nostro stomaco in una buona predisposizione d'animo. Ma voglio chiederlo al dottor Ciro Vestita, medico dietologo all'Università di Pisa, che è tornato a trovarci. Dottor Vestita, buongiorno. Buongiorno a voi, eccoci. Che dice, mangiare meno? Ma dunque, guardi, le patologie gastriche, cioè dello stomaco in sintesi, sono tantissime, però quelle più banali, la gastrite, il reflusso gastroesofageo, l'ernia iatale, sovente dipendono da un cattivo, da un erroneo stile di vita. Il mangiare troppo, ma soprattutto mangiare male. Però attenzione, non sono le tanto incriminate spezie di una volta si diceva non mangiare il pepe, non mangiare il peperoncino, non mangiare cibi speziati, ce ne fossero di questi cibi, sono stati rivalutati adesso come anticancro. Il problema è che mangiamo trash food, schifezze. Noi spesso assumiamo dei grassi vegetali idrogenati senza nemmeno accorgercene perché sono onnipresenti. Questi grassi sono di difficile metabolizzazione per il fegato, il nostro stomaco li rigetta, li rifiuta, quindi c'è questa ipersecrezione cloridrica che ovviamente dà fastidio, che crea appunto bruciore eccetera. In più mangiamo troppo, ha ragione lei, quando vengono da noi questi soggetti che hanno gastrite, disturbi di vario tipo di loro stomaco, basta semplicemente ridurre il quoziente calorico, cioè farli mangiare un po' bene, un po' meno è meglio, il soggetto sta bene, torna in ambulatorio e dice dottore, ha fatto un miracolo, io sto benissimo, lei non ha fatto proprio niente, è semplicemente lei che ha mangiato meno e si è sentito meglio perché ha sovraccaricato meno lo stomaco, e questo è quanto. Se potessi avere 2500 euro al mese sarei un uomo più cortese, perché non badere più a spese. No, sono un precario, somatizzo e dormo poco, e tutto quello che ti posso dare, amore, è soltanto mal di stomaco e gastrite. Soltanto mal di stomaco e gastrite. Soltanto mal di stomaco e gastrite. Aiuterebbe anche provare a prenderla un pochino più morbida, questo fa sempre bene, ma lo stomaco se ne avvantaggia in modo particolare perché è molto sensibile. Io vi invito a non pensare ai forti stress, ma proprio al logorio della vita moderna, che come la famosa goccia che scava la roccia, poco a poco, lentamente, ma inesorabilmente fa irritare il nostro stomaco. Insomma, a volte più del fritto fa lo stress. Buongiorno al dottor Alessandro Repici, direttore del servizio di endoscopia digestiva di Humanitas. Buongiorno a lei. Buongiorno Nicoletta, buongiorno anche ai suoi ascoltatori. Dottore, cioè, più di una bella parmigiana ci fa lo stress sicuramente. Sì, è vero, questo, anche in questo caso molto spesso i pazienti non percepiscono quanto è importante un, un allentamento delle tensioni della vita quotidiana, perché queste tensioni, tutti i momenti di stress agiscono a livello gastrico in maniera particolare. Diciamo che lo stomaco, ma anche l'intestino, sono due organi che risentono particolarmente dello stress, ma per meccanismi molto banali. Uno, perché lo stress attraverso un meccanismo semplice aumenta la secrezione di acido, quindi noi siamo più stressati e produciamo più acido. Abbiamo quindi più percezione del fastidio, e la maggiore produzione di acido si associa anche a un ritardo dello svuotamento del nostro stomaco, quindi abbiamo anche più sensazione di pesantezza. E l'altra cosa, che a livello intestinale invece lo stress non fa altro che aumentare le contrazioni, quindi il nostro intestino tende a muoversi in maniera più spastica, più irregolare, ed ecco che cominciano anche i dolori, vale a dire quelle coliche che spesso affliggono i nostri pazienti quando sono più stressati o sottoposti a stili di vita particolarmente stressanti. Noi oggi vogliamo capire, insieme al dottor Vestiti e al dottor Repici, che cosa possiamo fare per non irritare il nostro stomaco. Ma io vorrei fare una premessa. Se il problema c'è già, persiste, dura da tempo, occorre avere una diagnosi. Dottor Vestita, dottor Repici, vi passo la parola. Dottor Vestita, lei che dice? Dopo quanto tempo? Sì, prima di dire che la sintomatologia è banale, bisogna andare dallo specialista. Cioè, se c'è un Helicobacter, se c'è un'ulcera, a voglia stare tranquilli e sereni o usare piante medicinali, bisogna curare il male lì dove c'è. È chiaro, il problema è che sovente queste patologie, come appunto diceva il collega, sono diffusissime proprio per l'errato stile di vita. Una cosa da aggiungere è questo: sono rimasto allibito, ci è arrivato un lavoro sulle polveri sottili, e lei che sta a Milano ne dovrebbe sapere qualcosa. Queste polveri sottili, extra sottili, sono pericolosissime non soltanto per i bronchi, anzi i bronchi purtroppo vengono non avvisati da queste polveri sottili, perché non essendo grosse non c'è nemmeno il sintomo della tosse. Cosa fanno? Vanno negli alveoli polmonari, poi arrivano al cuore e danneggiano fortemente il cuore. Lo smog danneggia il cuore, ma la risultanza ultima è che danneggiano poi anche gli apparati vicini, perché noi siamo una macchina complessa e unica, non siamo specializzazioni diverse, e quindi danneggia anche lo stomaco. In poche parole, respirare male fa, secondo me, molto male, e chiaramente associato a una cattiva alimentazione poi fatto il... C'è un effetto quasi moltiplicatore. Esatto, quindi mangiare in maniera corretta, respirare aria buona possibilmente, bere dell'acqua serena, avere uno stile di vita serio e soprattutto non stressarsi. Questo è chiaro, perché lo stress purtroppo crea radicali. Guardi, lo stress è qualcosa, lei diceva della goccia, gutta cavat lapidem non vissed sepe cadendo, in latino. In sintesi, la goccia scava la roccia non con la forza, ma cadendo spesso. Se io tutti i giorni ho una molecola impazzita dei radicali liberi creati appunto da situazioni di stress eccetera, beh, questa alla fine mi buca lo stomaco. Certo. Quindi voglio dire, cerchiamo di stare più tranquilli, sereni, diciamo ci vuole un ritmo più lento, ecco, meno rock e più lento. 800 24 00 24 se volete intervenire raccontandoci anche come vi prendete cura del vostro stomaco, che cosa fate per trattarlo bene, perché lui non si lamenti. Ma dottor Repici, dopo quanto tempo bisogna andare dal medico? Ma guardi Nicoletta, lei ha centrato un problema importante, perché è estremamente importante che i vostri ascoltatori sappiano questo. I sintomi molto spesso, che noi possiamo considerare anche banali, possono essere espressioni di malattie, ed è molto difficile per il paziente capire quali sintomi o in quale momento dei loro sintomi questi diventano espressione di una malattia vera e non sono soltanto espressione di una cattiva dieta o di un eccesso di stress. Quindi è estremamente importante che i nostri ascoltatori si rivolgano al medico di base prima e allo specialista dopo, perché molto spesso la semplice descrizione di questi sintomi, la loro caratterizzazione e una banale visita, un esame obiettivo della pancia, dell'addome, consentono sia al medico di base che allo specialista di poter distinguere. Noi abbiamo dei criteri molto semplici ma anche molto rigorosi e molto efficaci per poter capire, senza grandi indagini diagnostiche, senza sottoporre i pazienti a chissà quali artifici tecnologici, possiamo capire se si tratta di sintomi che necessitano di approfondimenti, di una diagnosi più accurata, oppure se si tratta di sintomi che si possono correggere benissimo modificando lo stile di vita e andando verso uno stile più slow. Ecco, quello che suggerirei è ai nostri amici da casa di non fare automedicazione. Dottor Vestita, noi spesso ricorriamo ai farmaci, ma spesso noi li usiamo anche se non ce n'è strettamente bisogno. Insomma, il farmaco diventa una sorta di scorciatoia per spegnere il sintomo senza cambiare lo stile di vita. Anche le piante medicinali, guardi, c'è un abuso di aloe. L'aloe è una pianta meravigliosa, la guaritrice silenziosa, nelle patologie gastriche è indicatissima, ma col fai da te spesso la gente si rovina. Come tutte le piante medicali, hanno bisogno di un controllo medico, perché se usate male possono fare veramente pasticci. L'aloe, ad esempio, usata male può dare delle scariche di eroiche bestiali, può accentuare la peristalsi, può addirittura intossicare appunto l'organismo. Quindi, come diceva appunto il professore Repici, nei limiti del possibile, cioè noi abbiamo una medicina di base fra le migliori in Europa, il medico di famiglia è considerato veramente un'icona nella nostra sanità, rivolgersi a lui, poi da lì piano piano andare dallo specialista. Quando abbiamo capito che questa sintomatologia che abbiamo non è praticamente sinonimo di grave patologia, allora possiamo tentare di curarla o con la dieta, e qui ci sono delle cose miracolose a mio avviso, oppure con le piante medicinali. Un esempio banale: sovente queste gastriti, anche disturbi del reflusso gastrico, esofageo derniatale, migliorò tantissimo col succo di cavolo. Ora, sul cavolo vorrei dire una cosa prima che la gente sorrida: il cavolo innanzitutto è considerato dall'American Cancer Association l'ortaggio, l'alimento più potente nei confronti di vari tipi di tumore. Quindi è un ortaggio nobile, un alimento nobile, anche se ha questo saporaccio. C'era fare un centrifugato di cavolo vuol dire tamponare i succhi gastrici, lenire il dolore, rilassare la mucosa gastrica e soprattutto cicatrizzare quelle micro lesioni che si sono formate in seguito appunto a questa patologia. Il succo di cavolo, ecco, a differenza dell'aloe, può essere preso ad libitum, dicono i latini, cioè può essere preso in grandissime quantità, non ha effetti collaterali, tenendo conto che, come tutte le piante medicali, non ha solo poi il compito di far star meglio il soggetto con gastrite, ma anche un grande vitaminizzante. Lei nel cavolo trova di tutto e di più, la vitamina C, la vitamina K, lei dice centrifugato di cavolo, dottor Vestita. Sì, cavolo crudo è ben diverso. Ecco, vogliamo allora dare delle indicazioni precise, poi come si fa? Ci sono proprio dunque, delle apparecchiette? Noi centrifughiamo il cavolo per due motivi. Primo, perché se noi cioè il cavolo è ricchissimo di fibre anche molto indigeste, per cui impegniamo molto il nostro gastrointestinale a digerirle, quindi possiamo tranquillamente fare un centrifugato, quindi basta comprare una centrifuga da 20 euro e togliere le fibre. In questa maniera noi in un bicchiere troviamo una palla da cavolo intera, perché per avere un bicchiere, cioè 150 cc di succo di cavolo, ci vuole quasi 1,5 kg di cavolo. In questa maniera noi prendiamo, al di là delle fibre, tutti i principi attivi del cavolo, e guardi che di conseguenza cosa c'è? A parte il miglioramento della sintomatologia soggettiva, l'individuo si sente più energico, sta meglio, dorme meglio, perché sono ortaggi, sono nutraceuti, li chiamano gli americani, no? Che hanno questo potere immenso, cioè di energizzare la persona, di farla stare meglio, una fonte immensa di vitamine e soprattutto effetti collaterali zero, da non confondere con la frullatore, perché il frullatore invece frantuma le fibre, a quel punto lì è ancora peggio perché c'è un gonfiore gastrico immenso. Quindi centrifugato a digiuno, prima, dopo i pasti, come quando ci vuole coraggio, perché i miei pazienti dopo un po' mi odiano, che chiaramente, perché veramente l'odore è nauseabondo, essendo molto ricco di zolfo il cavolo ha un odore tremendo. Però ecco, se si riesce, ad esempio anche nei casi di colite ulcerose, in patologie ben più gravi il cavolo funziona, se si riesce, tre piccoli bicchieri avanti colazione, pranzo e cena, il risultato è bellissimo e immediato, effetti collaterali zero. Parlo ovviamente di minime patologie, non certo di una patologia da Helicobacter o da ulcera gastrica. Grazie dottor Vestita. Andiamo nella provincia di Verbania. Intanto vi ricordo il nostro numero verde per intervenire: 800 24 00 24. Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo porre una domanda al professore riguardo ad un problema che ahimè non riesco a risolvere. Ho sempre sofferto di gastrite. Da un anno e mezzo a questa parte e soffro anche di mal di gola. Mi dicono che sia associato comunque alla gastrite. Sì, Roberto. Non è possibile comunque trovare una cura, anche perché ininterrottamente da un anno e mezzo soffro di mal di gola, oltre che di mal di stomaco. Dottor Repici, allora Roberto ci porta, tante volte voi gastroenterologi ci raccomandate, quando parliamo soprattutto di stomaco, di prestare orecchio ad altri sintomi che sembrano non aver nulla a che fare con lo stomaco, sono ugualmente fastidiosi, ma che riferiti a voi potrebbero aiutarvi ad avere un quadro più dettagliato della situazione. Roberto dice: ho mal di stomaco, ho la gastrite o anche mal di gola. Il caso di Roberto è un caso tipico, Perché cosa succede? Roberto ci descrive un problema di gastrite, ma probabilmente approfondendolo il problema non è soltanto la gastrite. Cosa succede? Che in molti pazienti che soffrono di una condizione che si chiama reflusso gastroesofageo, vale a dire tendono a portare l'acido che producono in stomaco verso l'esofago per un meccanismo patologico, sì. In queste condizioni il reflusso arrivando in esofago può innescare una serie di manifestazioni patologiche anche molto importanti, l'abbiamo sentito da Roberto, un anno e mezzo non riesce a risolvere il mal di gola, che non sono legati al danno sull'esofago da parte dell'acido, ma all'esposizione all'acido di altri organi, in particolare le corde vocali, le faringe, qualche volta i pazienti riferiscono alla tachicardia perché si possono innescare anche delle manifestazioni aritmiche a livello cardiaco per la presenza dell'acido in un'area dove non dovrebbe esserci. In queste condizioni è estremamente importante rivolgersi allo specialista. Perché? Perché bisogna passare da una fase terapeutica standard a una terapia personalizzata. Molto spesso per curare questi sintomi che prevedono un'eccessiva esposizione all'acido sono necessari dosaggi di farmaci raddoppiati rispetto allo standard per periodi molto prolungati, altrimenti i pazienti non percepiscono nessun beneficio. Quindi è estremamente importante che questo tipo di manifestazione sia gestita da chi sia in grado di valutare qual è importante, quanto è importante avere un approccio terapeutico molto più aggressivo, ma soprattutto misurato sui sintomi del paziente. Dottor Vestita, però un po' di cavolo lo diamo anche, no, al nostro ascoltatore. Sul cavolo sono d'accordissimo anch'io, volevo spezzare anche una lancia, condivido. Andiamo di cavolo, ma dottor Vestita, lei mi fa impazzire i miei ascoltatori perché mi scrivono ad esempio quale varietà di cavolo usare, il cavolfiore va bene o solo il cavolo verza? Tutte le brassicacee, tutti i cavoli, tutte le crucifere anche, fra parentesi, sono utili in questo caso. Io sceglierei il cavolo cappuccio perché è più ricco praticamente di quelle sostanze che noi andiamo a cercare. Un altro consiglio poi, al di là appunto del fare centrifugati eccetera, lei ha dato un'idea, il cavolfiore in listerelle molto sottili può essere non cotto, quindi può essere mescolato in insalate, non da flatulenza, perché soltanto il cavolo cotto da flatulenza è fastidio, in piccolissime quantità se il ragazzo, perché spesso sono ragazzi giovani, se non sopportano il centrifugato di cavolo, piccole listerelle di cavolfiore mescolate ad altra insalata funziona già abbastanza. C'è un'ultima cosa, anzi due ultime cose che vorrei dire, sempre ovviamente in patologia me ne dica una, perché abbiamo i mercati e poi la seconda la riprendiamo subito dopo. La prima velocissimamente, la camomilla che noi tutti usiamo per addormentarci, ha ben altri poteri. Immagina, la camomilla si chiama matricaria, la matrix, matrix vuol dire utero, cosa vuol dire? Che è utilissima in tutti gli stati di spasmo, infatti usata matricaria nei dolori mestruali, bene, anche nelle coliti spastiche, anche nelle gastriti, la tintura madre, non certo l'infuso di camomilla, fa dei piccoli miracoli. Prendere grandi dosaggi sotto controllo medico di camomilla matricaria vuol dire lenire sovente questi disturbi che sono poi veramente una croce, una via crucis. Allora, riprendiamo, ve ne racconteremo di nuove di belle insieme al dottor Repici e al dottor Vestita, mercati, meteo, poi di nuovo insieme per prenderci cura del nostro stomaco. A tra poco. Che cosa facciamo se lo vediamo? Insomma, cosa vuoi capire guardandolo? A meno che, se Dio ci aiuta, non strangoli un passante. Non lo so, Sid, sto improvvisando. Beh, io dovrei essere a casa a lavorare alle mie magie. Ehi, perché non la prendi come una cosa che aggiunge emozione alla tua vita? Ehi, piccola, emozione nella mia vita è una cena senza bruciore di stomaco. Dal film Scoop di Woody Allen, dottor Vestita avrebbe avuto un rimedio anche per lui. Ma guardi, parliamo ovviamente, il collega parla di metodologie farmacologiche e io parlo di medicina naturale, il mio mestiere. Finalmente approdata, diciamo, anche se la medicina ufficiale in sintesi, c'è un alimento che fa dei piccoli miracoli per la sua ricchezza in mucillagini ed è il succo di patata. È qualcosa di pazzesco, ovviamente bisogna farlo. Beh, questi ortaggi spesso scatenano il sorriso, no? Però se uno li prova e vede l'efficacia, li fa per tutta la vita. Cosa fa il succo di patate? È talmente. Lo mettiamo sempre nella centrifuga? Come si fa qua? Ma sempre centrifugato, perché le fibre non andrebbero prese in questi casi. Se lei fa un centrifugato di patata, un succo di patata, sì, a piccoli cucchiaini preso essenzialmente al mattino appena svegli, beh, la situazione migliora tantissimo. Parlo ovviamente delle minime patologie, come anche ad esempio i semi di lino messi praticamente in acqua la sera prima di andare a letto, al mattino creano una rete di mucillagini talmente cospicua, talmente forte che tampona i succhi gastrici. Ovviamente sono metodologie antiche, però io dico sempre, noi siamo, per dire con San Bernardo, dei nani sulle spalle dei giganti, siamo piccoli piccoli, però se ci mettiamo sopra la scienza, beh, forse vediamo più lontano degli altri. Quindi terapie naturali normale finché la patologia è piccola. Se la patologia è cospicua, beh, anche noi possiamo intervenire, interveniamo anche nelle colite ulcerose, però sempre a fianco dello specialista che ovviamente segue queste malattie. Dottor Repici. Beh, concordo assolutamente con Vestita, credo che abbia detto delle cose ragionevoli e concordo anche sul fatto che spesso ci può essere una buonissima integrazione tra chi cura questo tipo di patologie con un approccio un po' diverso rispetto a quello dell'approccio tradizionale. La collaborazione tra i due modi di vedere la medicina è sicuramente una collaborazione estremamente favorevole e che ci consente anche nel tema del bruciore di stomaco e nel tema delle patologie intestinali di risolvere molto spesso i disturbi dei nostri pazienti, soprattutto quando non sono associati a malattie molto importanti o comunque a malattie evolutive come le neoplasie, a risolvere questi sintomi con rimedi molto fisiologici, molto naturali da cui possono trattare. Anche perché questi rimedi naturali, dottor Repici, ci permetterebbero anche di ridurre il ricorso ai farmaci, e questo insomma, no? Di tenere solamente i farmaci là dove sono, nei casi in cui sono necessari. Io vorrei leggere al dottor Vestita, perché ho gli ascoltatori che mi chiedono un suo parere. Ad esempio Chris mi dice: a me consigliano la tintura madre di zenzero. Dottor Vestita. Attenzione, dunque, lo zenzero, il ginger, è un prodotto, diciamo, che va preso molto tra virgolette, non so se sia utile in questo caso. Lo zenzero è una spezia anche molto forte, molto aggressiva, non credo sia utilissima usarla nelle patologie gastriche, non la vedo utile. Ci sono altre metodiche, sempre come piante calmanti, abbiamo forse un po' più innocenti, abbiamo la passiflora, che hanno un forte potere lenitivo, abbiamo l'angelica, abbiamo il tiglio, quindi io mi rivolgerei essenzialmente a questi prodotti, più il succo di aloe. Ecco, l'aloe fa veramente dei piccoli miracoli, se usato bene, fra parentesi, e prendere il succo di aloe, ovviamente sotto controllo medico, in questi casi vuol dire, secondo la mia esperienza, nel 70-80% dei casi, risolvere queste minime patologie, intendo, perché francamente la persona sta meglio, non ha più disturbi, e anche perché, parliamoci chiaro, c'è anche un effetto placebo che può essere ottenuto sia col farmaco che con la pianta medicinale. Certo. Il soggetto sta meglio perché si sente seguito, e quindi perché non cominciare, visto che di placebo si tratta, con prodotti naturali che poi hanno effetti collaterali zero. E poi una sana alimentazione, ecco, mangiamo in maniera corretta, evitiamo le porcherie, evitiamo trash food, la pizza. Se lei fa una pizza classica fatta in casa, dove usa della buona mozzarella, del buon pomodoro, della buona pasta lievitata, è un alimento stupendo, ma lei provi a mangiare una pizza di quelle che certe volte vendono in zone strane, stazione eccetera, dove la qualità è veramente bassa, lei, anche se lo stomaco di ferro, sta male 3 giorni. I frutti di mare pescati, gamberi eccetera, mangiati lì per lì, sono eccezionalmente buoni. Ma noi tutti sappiamo che il 60-70% di questi prodotti sono congelati per mesi, sono stivati sovente in pessime condizioni. Lei mangia una pasta asciutta con questi frutti di mare, lei si avvelena e lo stomaco poi sta male. Quindi una sana alimentazione, molta accortezza e poi alla fine usare molto il cervello. E ripeto, come diceva il collega, appena c'è qualche sintomo che non torna, rivolgersi allo specialista, è ovvio. Andiamo a Brescia, c'è Gianpaolo, buongiorno. Buongiorno. Oilà, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Chiamo più che altro, vabbè, non per me, ma per mia moglie, perché mi sono un po' stancato di dirgli che mangia male. Ah no, pensavo che lei mi dicesse mi sono stancato di mia moglie, io ero, mi metteva un po' in imbarazzo. No, lei si è stancato di quello che mangia sua moglie. Esatto, sì, mia moglie soffre di reflusso da parecchi anni ormai, sì. E vive quasi esclusivamente di tè e biscotti. Cioè, tranne a mezzogiorno che mangia un panino sul lavoro perché non ha tempo per andare a mangiare, poi la mattina fa colazione con il tè e biscotti, la sera cena con tè e biscotti. Oh, mamma mia, dottor Repici, ma... È un errore clamoroso quello della signora, per due ragioni. Uno, perché il tè in eccesso, essendo il tè una xantina metilata, determina un aumento della produzione di acido, quindi ha un effetto rebound, produce più acido di quello che produrrebbe mangiando un sano piatto di pasta con una dieta mediterranea. E il secondo problema è che, soprattutto per chi ha il reflusso gastroesofageo, aumentare la quota di liquidi la sera, mangiare a cena cose liquide, aumenta poi il reflusso durante la posizione supina del sonno. Quando noi tendiamo a distenderci per andare a dormire, se abbiamo lo stomaco pieno di liquidi, questi liquidi porteranno molto più acido in esofago, quindi il comportamento della signora è assolutamente errato, e concordo con il marito che è stanco di vedere la signora fare cose che non vanno bene per il reflusso. Ma non credete che sarà più stanca lei, povera donna, a vivere a te biscotti che il marito a guardarla? Comunque, sì, allora, che dice? Quindi no te, forse anche il panino a pranzo, dottor Vestita, proprio non è il massimo, no? Bisogna perché vedere il panino e panino, attenzione, il panino fatto bene, il panino innanzitutto un pane serio, lievitato bene, con una fetta di prosciutto crudo è un alimento ideale, ma se ci mette dentro cose orripilanti, strane maionesi, sughi, ragù, roba, quelle besciamelle che spesso si trovano già nei bar, in un panino cosiddetto all'olio, dove di olio c'è soltanto il ricordo, beh, quel panino è un cazzotto nello stomaco. Oppure i cibi cucinati male, cucinati eccessivamente. Per dirla con Oscar Wilde, che Dio ci salvi dai cuochi e dalle pentole, usiamo un'alimentazione sobria, seria, un pesce veramente buono, non ha bisogno di essere stracotto o mescolato a tante salse. Un'orata alla sera, come diceva il collega, evitando appunto il tè, eccetera, è un cibo delicato, gentile, una pasta asciutta, permette di nutrirsi, di avere anche molta palatabilità, perché noi viviamo anche di gusto, e di stare meglio. Se uno offende lo stomaco la sera con cibi allucinanti, con questo trash food che ci circonda, con questi prodotti così osannati, giustamente lo stomaco, diciamo, si irrita. Dottor Vestita, spero di averla con noi presto. Grazie, so che lei deve scappare, ma il caffè lo può prendere, lo possiamo prendere o no? Un ascoltatore guardi, mi scrive, posso fare un filo di pubblicità, io tutti i mercoledì alle 4:40 sono a Grengheo su Rai 3, e la domenica a Linea Verde, la prossima volta parleremo proprio di caffè e Grengheo. E allora si ricordi, citi anche carina. Essere Benessere su Radio 24, così grazie ci scambiamo. Grazie, grazie a lei. Buongiorno. Il dottor Repi ci rimane con noi, perché dottore, dobbiamo anche affrontare il caso in cui i sintomi persistono e bisogna andare dal medico per fare una diagnosi. Ci sono degli esami. Ci sono magari delle terapie che possono un po' ridurre il sintomo, ma nei casi più severi si può anche ricorrere a fare uso di tecniche per riparare un po' il danno. Ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico e soprattutto continueremo a parlare di quei sintomi sospetti che è bene ricordare, bene così visualizzare, tenere a mente quando andiamo dal medico, che non sembrano avere nulla a che fare con lo stomaco, però purtroppo hanno a che fare proprio con lui. Pronto? Io sono la camera 35. Sì, vorrei qualche cosa da mangiare. Da? Com'è? Beh, com'è mangiare? Ma non roba pesante, roba leggera. Qualche panino, sì, qualche acciugo, un po' di burro, spaghetti, carne, pesce, bene, bene. Sì, carne, pesce e osso buco. Benone, sono ghiotto. Oh, ma senza osso, solo il buco, eh? Eh no, perché l'osso non lo digerisco. Frutta, formaggio, caffè e antipasto. Io per antipasto piglio pasta e fagioli. E un po' di bicarbonato. Tutto questo per quattro, eh? Ma mi raccomando, subito. E noi torniamo subito insieme al dottor Repici. Totò non si faceva mancare nulla, ma dottor Repici, quando arriva il bruciore di stomaco, noi dobbiamo stare attenti a che arrivi prima o dopo, a stomaco pieno o a stomaco vuoto? Fa la differenza? Sì, sì, fa la differenza, perché se arriva prima o se arriva dopo può essere espressione di malattie diverse, quindi dobbiamo saperlo anche raccontare ai nostri medici. Spesso quando i pazienti soffrono di bruciore di stomaco, di mal di stomaco a digiuno e vanno meglio quando cominciano a mangiare, hanno un problema di iperacidità, ma probabilmente anche un problema di ulcera gastrico duodenale. Mentre al contrario, quando tendono a sviluppare l'acidità subito dopo aver finito di mangiare, il problema può essere più legato ad un reflusso di acido dallo stomaco all'esofago. Quindi è estremamente importante che i pazienti sappiano riferire al loro medico esattamente come questi sintomi si sviluppano e quali sono le correlazioni con l'assunzione del cibo. L'altra cosa importante è che riferiscono e che siano attenti al fatto che i sintomi compaiono anche di notte, perché il fatto che iniziano dei sintomi notturni può essere una manifestazione d'allarme da valutare molto attentamente col medico. I sintomi notturni riferiti al bruciore o anche a quelle tossettine notturne che disturbano anche, il nostro riposo. Anche alle tossettine abbiamo già affrontato il problema. In realtà, soprattutto quando si sviluppa la tosse, questa tosse è più importante al risveglio mattutino, proprio perché durante tutta la notte, essendo in posizione supina e l'esofago sullo stesso piano dello stomaco, il reflusso di acido è tale che tende a irritare per un periodo prolungato il primo tratto delle vie aeree, delle vie respiratorie, le corde vocali, quindi subito al risveglio il campanello d'allarme di questa irritazione è la tosse frequente, stizzosa. Quindi quando il problema è proprio la tosse da reflusso, in genere i pazienti tendono a dormire abbastanza bene, ma hanno la manifestazione subito al risveglio. Dottore, quindi per ricapitolare un po' per i nostri ascoltatori, ricordate, fate attenzione a quando si manifesta il bruciore, se prima o dopo pranzo. Ma dopo pranzo può anche intervenire dopo un paio d'ore o subito dopo, mi chiede Antonio? Ma in genere l'intervallo è abbastanza breve, mentre i sintomi molto tardivi, quando la fase della digestione è quasi completata, vengono da noi considerati quasi dei sintomi a digiuno, cioè superate le 2 o 3 ore, noi crediamo che l'intervallo dopo l'assunzione del cibo delle 2 o 3 ore sia quello del completamento della digestione. Quindi dalle 3 ore in poi noi consideriamo questi sintomi come sintomi a digiuno. Dottor Repici, si parla di tecniche che sono suggerite nei casi in cui, insomma, si è un po' tentato di tutto, si è tentato il cambiamento dello stile alimentare, magari si è aggiustato un po' anche la dieta con l'integrazione magari di proprio alimenti naturali, come ci suggeriva il dottor Vestita, o si sono presi dei farmaci e il problema persiste, che si fa? Si possono fare tante cose. Intanto rapidissimamente spezzo una lancia nei confronti della diagnosi endoscopica, nel senso, abbiamo detto che quando i sintomi diventano importanti, sintomi che non sono quelli usuali o che comunque si modificano nell'arco del tempo, è sempre rilevante poter esplorare lo stomaco e l'esofago. L'esofago e lo stomaco si esplora con la gastroscopia. Questa parola molto spesso incute timore ai pazienti, pensano che si tratti di qualcosa di particolarmente spiacevole che non gli consente di respirare. In realtà ormai i gastroenterologi italiani in tutti gli ospedali utilizzano dei metodi di sedazione del paziente, per cui l'esame è estremamente confortevole. Nel 95-98% dei casi i pazienti non si accorgono di nulla ed hanno una diagnosi completa, perché l'endoscopia consente di entrare dentro il nostro organismo e di stare di fronte alla mucosa gastrica, alla mucosa esofagea, poter capire se si stanno sviluppando delle malattie, ma soprattutto è in grado di identificare quelle lesioni che possono diventare dei tumori, delle manifestazioni maligne. Quindi questo dal punto di vista della diagnosi. Per ciò che riguarda invece le nuove tecniche per la cura del reflusso, bisogna dire che la maggior parte dei pazienti che soffrono di iperacidità o di reflusso gastroesofageo hanno una buonissima risposta ai farmaci che noi utilizziamo attualmente. Abbiamo a disposizione dei farmaci estremamente semplici da utilizzare, che inibiscono la maggior parte della secrezione acida dello stomaco e che determinano un netto miglioramento dei sintomi nella maggior parte dei pazienti che noi trattiamo. Quindi il trattamento con nuove tecniche deve essere riservato in realtà a una piccola quota dei pazienti che soffrono di questi disturbi. Cosa si può fare? Sicuramente l'indicazione più importante per l'applicazione delle nuove tecniche chirurgiche, in particolare della laparoscopia, è quella della presenza di un'ernia iatale. Ernia iatale è una parola che ricorre frequentemente. In termine molto semplicistico significa che una parte del nostro stomaco, la parte più vicina all'esofago, tende a migrare verso l'alto, per cui cambia posizione anatomica. Dall'addome, che è la sua sede naturale, tende a migrare verso l'alto, si porta in torace. Per una piccola quota di stomaco, la presenza in torace significa un netto aumento del reflusso gastroesofageo. In queste condizioni, quando il reflusso non è ben controllato dai farmaci, quando determina sintomi notturni, quando espone troppo il paziente a manifestazioni da danno di acido, a esofagiti importanti, allora la chirurgia laparoscopica può determinare una correzione del difetto anatomico, vale a dire riporta lo stomaco nella sua sede naturale e rinforza quei meccanismi di valvola che impediscono all'acido di migrare dallo stomaco all'esofago. Quindi in una maniera molto fisiologica, cioè riproponendo lo stesso meccanismo che la nostra anatomia ci dà in condizioni normali, la chirurgia laparoscopica consente di bloccare tutti quei fenomeni di reflusso che normalmente sono la causa dei sintomi dei nostri pazienti. Si tratta di una cosa che va applicata a una piccola percentuale. Piccola percentuale, ma dottor Repici, una volta risolto il problema? Beh, questa è una domanda imbarazzante. Questa è una domanda imbarazzante. Diciamo, ho risolto il problema nella maggior parte dei casi, perché vorremmo essere in grado di poter dire che tutte le tecniche funzionano nel 100% dei pazienti. Questo non è vero, bisogna avere anche la correttezza di spiegarlo ai pazienti. Diciamo che moltissimi dei pazienti operati hanno un netto miglioramento dei sintomi per un periodo molto prolungato, per un periodo anche di 5-10 anni, e quindi per un intervallo temporale molto significativo. Tenga conto che questi pazienti che vanno all'intervento chirurgico normalmente non riescono a essere asintomatici se non prendendo una terapia continuativa, quindi l'alternativa alla terapia chirurgica è comunque assumere farmaci, vita naturale durante. Dottor Repici, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a lei, grazie per l'ospitalità. Grazie, come si dice, alla prossima. Io invito invece voi da casa, noi ogni giorno vi diciamo, cerchiamo di diventare protagonisti attivi del nostro benessere, della nostra salute. Per questo noi vi suggeriamo di andare sempre a fare una visitina nella nostra officina del benessere, il nostro laboratorio del benessere, che è Daily Lab. Ogni giorno un esperto vi suggerisce un consiglio facilissimo per scoprire che la prevenzione può essere anche molto piacevole, divertente, aggiunge qualità alla vita ma anche sapore alla quotidianità. Andate su Daily Lab, io intanto vi auguro una buonissima giornata e vi aspetto come sempre lunedì. Radio 24. La passione si sente.